queste occasioni diciamo che le banalità si sprecano, potremmo dire tante cose, tante di quelle cazzate, 40 anni ma non le dimostra, eccetera, eccetera. Però una cosa sostanziale e non banale rimane comunque. Rimane che è una realtà la rivista, che sono 40 anni nella realtà italiana, che fa controinformazione, fa cultura libertaria, e questo è sicuramente un qualcosa da sottolineare. Come sono stati questi 40 anni? Credo che dopo Paolo ce li illustrerà un po' lui, la storia, eccetera, eccetera, di questi 40 anni. Quello che mi preme adesso a me, è che è stata un po' la molla che insieme ad altri compagni ci ha spinto a fare questa giornata, e la motivazione di fondo è quella, come saranno i prossimi 40 anni, volendo banalizzare ancora una volta, come saranno i prossimi 40 anni, saranno quelli che riusciremo a fare. Io da un po' di tempo devo notare che in tutto il movimento anarchico e libertario italiano c'è un po' di sofferenza nel senso che viene vissuta come chiamiamola crisi, chiamiamola, cioè che il movimento anarchico è un po' marginale in questo periodo nella società italiana. Io spererei che questi famosi prossimi 40 anni possano nascere proprio da giornate come queste, cioè vale a dire dove i compagni ci vediamo, parliamo, discutiamo, perché se vogliamo dirlo fino in fondo, se siamo in crisi è perché siamo un po' sfilacciati, siamo un po', come dire, ognuno va per il suo dire, per il suo fare, e secondo me dovremmo un po' darci da fare, un po' riflettere su quello che facciamo, perché come dicevo stamattina a Paolo in una chiacchierata così informale, cioè, la società negli ultimi 100 anni, 100, 150 anni è cambiata di moltissimo, ma il movimento anarchico non lo so se ha fatto lo stesso progresso, facendo i dovuti raffronti, che ha fatto questa società. E allora a questo punto io mi pongo il problema. Vogliamo vedere se noi anarchici siamo in grado di riaffermare quello che è la nostra sostanza, la nostra cultura ultracentenaria di libertà, di autogestione, eccetera, eccetera, se siamo capaci di farla riaffermare in questa società che è profondamente mutata negli ultimi 150 anni. Perché se così non è, se non riusciamo a fare questo, vuol dire che in un certo senso siamo un po' anacronistici, siamo un po' fuori dal tempo. E allora è questa la problematica che io vorrei sollevare in questo momento, proprio perché, come dicevo, un po' in modo scherzoso, un po' in modo serioso, cioè i nostri prossimi 40 anni, quali saranno? Saranno quelli che appunto vengono fuori da queste situazioni. E niente, questa diciamo è la molla di questo dibattito che dovrebbe nascere adesso, in questa situazione qua. E spero che ognuno dia un contributo personale che possa diventare come dire tesoro di movimento, quel movimento che ripeto per l'ennesima volta sembra che in questa società sia molto marginalizzato. Perché se noi ci guardiamo intorno nella cosiddetta società civile, nella cosiddetta società comune, le idee anarchiche sono tutt'altro che rifiutate, cioè la gente al giorno d'oggi sente il bisogno di staccarsi da questo stato ogni giorno più tiranno, ogni giorno più, però il movimento anarchico non riesce a dare il suo contributo affinché questa la cosiddetta gente, la cosiddetta società civile riesca a prendere coscienza del fatto che si può fare anche a meno dello Stato, anche a meno delle strutture statali, anche a meno di questa cosiddetta società che pensa a tutto e poi non pensa a niente. E quindi ecco, il nostro contributo dovrebbe essere questo. Io spero che con queste quattro parole sono riuscito a dare come dire, l'indirizzo che vorrei a queste situazioni, proprio perché, ripeto, per l'ennesima volta, a costo di essere banale, vorrei che i prossimi 40 anni siano un'altra rivista anarchica che dia il suo contributo all'anarchismo in generale e a tutti noi, insomma. Tra un po' daremo la parola a Paolo che dopo un minimo di dibattito farà la sua conferenza, ci presenterà i suoi 40 anni e poi dopodiché seguirà un altro dibattito, cioè nel senso, se qualcuno ha qualcosa da dire, da obiettare, da chiedere a Paolo, può farlo anche dopo. Ok, la parola a Bagunino. Grazie. Allora, prima che comincia la parte più di dibattito, che spero che sia viva e feconda, porto i saluti dei compagni di Roma e del Lazio. Sono presente qua in qualche modo, in modo un po' contraddittorio rispetto a quello che diceva prima Gianfranco, perché sono arrivato ieri e ho visto una situazione vivida e libertaria. Sono arrivato perché c'è un mercatino, fra le varie capacità e possibilità dell'anarchismo c'è questo intervento nel rurale, lavoro nella terra, e abbiamo sviluppato un confronto per esempio sulle tematiche di agricoltura, autogestione, ruralità e rapporto con le città, vedendo sia gli aspetti del conflitto, che come vediamo la crisi aumenta e non è soltanto la crisi economica, sono le crisi più generali, ambientali, sociali, eccetera, ma anche le possibilità di risposta. E in questo io vedo, per pratica quotidiana, per i collegamenti, eccetera, una vivacità dell'anarchismo nel senso più largo del termine, non soltanto dello specifico e dell'organizzazione, e quindi della memoria di tutta una serie di lavori, ma anche nelle pratiche quotidiane, cioè una ricerca dell'autogestione, dell'azione diretta, del rifiuto della delega, che senza chiedere adesioni ideologiche, in molte persone e in molte situazioni è sempre più larga. E in questo senso chiudo qua, e quindi è questo il saluto, e arrivo proprio perché questa rete oggi ha un rapporto con questa realtà territoriale, sperando che si allarghi ancora di più, dove il saluto non è di pragmatica. Ho deciso anche di rimanere nella giornata successiva per incontrarmi con compagni e vivere convivialità e piaceri, salutare i compagni che non vedevo da tempo e a rivista, che è una delle pietre miliari della nostra storia e memoria, e poi continuare e andare avanti. Io credo che le prospettive dell'anarchismo siano molteplici, non lo dico soltanto così per piaggeria o altro, perché per fortuna tante volte sono maggiori e migliori degli anarchici stessi, compreso me. Saluti a tutti. Qualche altro intervento vorrebbe intervenire Paolo per fare. Allora, in realtà mi avete imbrogliato, perché mi avete chiamato per celebrare i 40 anni gloriosi della rivista e poi in realtà ponete qui delle questioni non a me, ma anche a me, compagno fra i compagni, qual è il nostro senso, cosa facciamo nei prossimi 40 anni. Beh, io se, avendo compiuti 60 la settimana scorsa, dovrei arrivare a 100, mi sembra un po' eccessivo, per qualcuno, forse per Giovanni i 40 sono all'orizzonte, ma comunque, no, a parte scherzi, vuol dire, altro è raccontare in maniera magari anche simpatica un po' la storia di questi 40 anni, cosa vuol dire eccetera, altro è diciamo affrontare un dibattito, il solito dibattito, ma il solito fondamentale dibattito per noi sul ruolo degli anarchici, perché siamo pochi, perché vorremmo essere tanti, cosa serviamo, cosa serve la rivista, come si fanno le cose, cioè tutto, il solito tutto che dobbiamo discutere. In realtà mi sembra una, al di là che possa essere più faticosa, mi sembra interessante, anche perché la rivista, bene o male, e dedico la primissima parte sempre un pochettino alla rivista, è nata all'interno del movimento anarchico. Ha cercato poi nel corso del tempo di proiettarsi sempre più fuori, ma restando, credo, saldamente ancorata all'anarchismo. Faccio una brevissima storia, ma di poi fatemi il simbolo del forbice e taglio. La rivista è nata, primo numero, nel febbraio del 71, e cioè 14 mesi dopo, a Milano, non a caso, la strage di Piazza Fontana, cioè l'assassinio di Pinelli, l'arresto di Valpreda, l'inizio di quella grossa mobilitazione che è stata conseguenza di questo attentato che, oltre a essere stato la madre di tutte le stragi nella storia italiana, eccetera, è stato, per quel che riguarda l'anarchismo e il movimento anarchico, il più grosso momento di presenza sui mass media. Non sto dicendo né positivo né negativo, dico che da moltissimo tempo, e forse data la anche allora crescente potenza dei media, mai si è parlato tanto di anarchici sui mass media in un periodo così breve come a partire dal 13 dicembre, dal 12 dicembre, dal giorno, i giornali del giorno dopo, 13 dicembre del 69. Adesso non sto a fare la storia della strage di Piazza Fontana, ci interessa rilevare che appunto per il movimento anarchico e soprattutto per il relativamente giovane e relativamente fragile movimento anarchico a Milano fu una botta e uno shock della Madonna, bello grosso. Di quello che, se tu giravi nei tram, sui mezzi pubblici, il 17, il 18, il 20 dicembre, il giorno dei funerali di Pinelli, e anche a gennaio del 70, eccetera, e dicevi di essere anarchico, non è una battuta dire che, insomma, la tua incolumità personale in quel momento era ad ampio rischio. Non se capitavi in un tram frequentato da gente, diciamo, di sinistra, fra virgolette, perché in realtà fin dall'inizio si colse il senso un po' della provocazione dello Stato e giunsero gli effetti della risposta degli anarchici, ma solo in ambienti limitati all'inizio, e fu un lavoro lungo quello di controinformazione che portò 3 anni dopo, nel 72, alla scarcerazione di Valpreda, prima ancora delle sue varie assoluzioni e non assoluzioni nei processi. Per chi non se lo ricorda o non c'era allora, nel 1972 venne fatta una legge, chiamata la legge Valpreda, la quale modificava la legislazione allora in atto, che prevedeva che chi fosse accusato di un reato da ergastolo doveva restare in carcere. Visto che non c'era stato, e poi durerà decenni praticamente, il processo Valpreda, per l'opinione pubblica generale era talmente pesante la detenzione di Valpreda che le stesse forze politiche proposero e approvarono in Parlamento una legge, appunto la legge Valpreda, cosiddetta legge Valpreda, che prevedeva che anche se tu avevi una condanna passibile, un reato passibile di condanna all'ergastolo come Valpreda, avresti potuto essere scarcerato. E così, appena approvata la legge, Valpreda fu scarcerato. Fra i primi giorni dopo la strage e il 1972, i 3 anni dopo in cui c'è questa legge, c'è una grossa mobilitazione. Una grossa mobilitazione che parte dalle prime manifestazioni a Milano e poi riguarda tutta Italia e si basa sulle 3 parole d'ordine che noi anarchici milanesi avevamo lanciato in una conferenza stampa nella sede del Circolo, Circolo Anarchico Ponte la Ghisolfa, il 17 dicembre del 69, i giorni contano, perché nella notte fra il 15 e il 16 vola dalla finestra Pinelli in questura. La mattina del 16 era stato poi arrestato Valpreda, il mostro che ci ha fatto piangere, titolavano i giornali. Ebbene, il 17 c'è questa conferenza stampa degli anarchici che dicono: Valpreda è innocente, Pinelli è stato assassinato, la strage è di Stato. Il Corriere della Sera, il Corrierone, il grande quotidiano milanese, il principale quotidiano nazionale anche allora, titola il giorno dopo: farneticante conferenza stampa degli anarchici nel loro circolo. Ripeto, le parole erano Valpresa innocenti, Pinelli assassinato, la strage di Stato. Adesso queste cose qui le dice forse anche il nostro amico Mario Monti, vuol dire tutta la schiera politica parla di almeno dubbi sulla morte di Pinelli, che allora era, di sicuro si era stato assassinato, nessuno più o meno mette in discussione l'innocenza di Valpresa e anche le responsabilità dello Stato, o come preferiscono dir loro, di tratti deviati dei servizi e dello Stato, ormai non sono discusse da nessuno. Ma per restare al nostro tema, dentro questa mobilitazione fra il 12 dicembre, fra la fine del 69 e il 72, ci sta anche nel febbraio del 71 la nascita della rivista anarchica. Allora il panorama della stampa anarchica italiana comprendeva Umanità Nova, che allora aveva una redazione a Roma, aveva ancora un formale da grande giornale ed era gestito sempre dalla Federazione Anarchica Italiana, e il compito era affidato a due vecchi compagni, vecchi già allora, diciamo, sui 70 credo, sui 70, come Mario Mantovani di Milano e Umberto Marzocchi di Firenze, ma residente a Savona, due compagni storici della Federazione Anarchica Italiana. Era un giornale, secondo me fatto bene, questo è un giudizio personale, un po' vecchio, che rispecchiava anche l'età, non era sensibile alle ultime trovate della grafica, della comunicazione, eccetera, che già allora, dopo il 68, si affacciavano anche nei movimenti alternativi. Pensate ai manifesti del maggio 68 in Francia, tutta una nuova grafica che c'era. Comunque svolgeva la sua dignitosa funzione di colonna la vertebrale settimanale del movimento anarchico. C'era l'Internazionale, c'era ancora per qualche numero la Donata e Refrattari che arrivava dagli Stati Uniti, c'era qualche altro giornale, ma questo era il panorama. E a Milano si sentì la necessità, proprio perché Milano era diventata la capitale dell'anarchismo, se non altro come vittima della manovra repressiva, Pinelli, Valpresa, eccetera, eccetera, di fondare un giornale. E nacque quindi l'idea di fare una rivista all'interno del circolo Ponte Argisolfa, che era allora, se non l'unico, il principale gruppo militante a Milano, di cui aveva fatto parte fino al 15 dicembre anche Pinelli. Quindi per il nostro gruppo, io ero allora un ragazzino, la morte dell'assassino di Pinelli fu uno shock anche personale, diciamo, perché era un compagno, un amico, eccetera, eccetera. Nel febbraio del 71 nasce il primo numero e fra i compagni si erano raccolti i soldi per pagare i primi tre numeri e si disse: se il giornale va avanti, cioè se il giornale incontra il gradimento del movimento, dei compagni, ne facciamo comunque tre numeri e poi se va bene cominceranno a entrare i soldi e andiamo avanti. In realtà andò bene e siamo andati avanti. Da allora la rivista è uscita regolarmente tutti gli anni nove numeri, ormai abbiamo chiuso, qui festeggiamo i 40, in realtà con l'ultimo numero abbiamo chiuso il 41esimo anno, stiamo entrando nel 42esimo anno. Naturalmente le cifre allora erano altre cifre, la rivista nacque intorno alle 8-10.000 copie stampate, raggiunse col numero sulla resistenza del 43, cioè nel 73, il trentennale del 1943, dell'inizio del partigianato, eccetera, eccetera, raggiunse le 13.000 copie. Oggi questi numeri sono molto ridotti. Noi stampiamo attualmente circa 4.300 copie al mese, pensiamo di venderne più o meno due terzi, quindi quasi 3.000 copie a numero, diciamo. Oggi però si è aggiunta, da qualche anno, l'online, la versione online, che da quel che ci dicono i contatori automatici ha un numero sostanzialmente uguale, anzi un po' superiore adesso, di contatti online. Si è aggiunta da un anno anche la versione online integrale in inglese, sulla quale non abbiamo dei dati di lettura, ma che sappiamo che inizia a farsi spazio nel mare immenso del web. Quindi c'è gente che se la legge in inglese la può anche scaricare tutta dalla prima parola all'ultima, e questo riguarda circa l'ultimo anno della rivista, e quindi si cerca di andare avanti. Però io non vorrei fare qui una storia della rivista, diciamo. Vorrei darvi un po' una fotografia attuale dei dati della rivista e poi passare gradualmente, se riesco col mio intervento, a contribuire in questo caso sì, anche da redattore di A, ma principalmente, come dicevo prima, da compagno fra compagni, a questa riflessione più generale, che per noi di A coinvolge anche la rivista, perché nel nostro dato militante, nel nostro contributo a questa casa comune, che è un po' un casino comune a volte, che è l'anarchismo, ci sta anche il, diciamo, il nostro contributo come rivista. Attualmente, per capire un attimino come va la rivista, di queste 4.000, diciamo, 300 copie, noi ne mandiamo poche centinaia alle librerie, o direttamente noi o tramite un distributore, e anche qui c'è un dato che ci può interessare al di là del dato commerciale, e cioè che la rete delle librerie tende da anni, e negli ultimi 2 o 3 anni in maniera accelerata, a buttar fuori le riviste politiche. E questo in particolare riguarda quel settore, vorrei dire fra virgolette berlusconiano, nel senso di monopolizzatore, che non è di Berlusconi ma è la Feltrinelli, la rete Feltrinelli, la quale dopo aver in qualche misura, non dico sostenuto, ma dato spazio, penso appunto negli anni, a fine anni 60, primi anni 70, anche con un qualche guadagno commerciale, alle pubblicazioni della sinistra alternativa, del mondo alternativo, eccetera, ha deciso già da anni, in maniera scientifica, cinica e molto organizzata, di progressivamente buttarle fuori. E le Feltrinelli, in cui noi eravamo presenti più o meno in tutta Italia, ormai siamo ridotti a meno di un terzo, noi come rivista, ma sappiamo che il destino è comune ad altri. Abbiamo poi circa 200, fra gruppi e singoli compagni, che ricevono copie della rivista per la distribuzione. È cambiato il clima della distribuzione. Negli anni 70 mandavamo 600 copie a Torino, 400 a Bologna, 800 a Roma, ed erano queste le cifre. E a noi capitò una mattina, davanti all'Università Statale di Milano, di vendere in una mattina, in 2 persone, 600 copie di A. Andavano effettivamente a ruba, nel senso che non le rubavano, ma te le strappavano di mano, e non eravamo neanche gli unici davanti al portone. C'era anche Fronte Unito del Movimento di Capanna, c'era anche il Manifesto, c'era anche Renudo, c'erano anche i marxisti-leninisti, quindi vuol dire altri tempi, altro clima. Oggi questi distributori che abbiamo sono in gran parte, non tutti, ma in molti sono a livello di gruppo o amicale, cioè ricevono le 10 copie, le 5 copie, 8 copie e li distribuiscono in parte a gente conosciuta, eccetera. Però sono pur sempre 200 punti vendita mobili che sono presenti nella società. Quindi è il solito discorso, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, quale parte considerare. Abbiamo anche gli abbonati, che sono alcune centinaia, circa 700-800, sono più o meno sempre quelli da un po' di anni, nonostante campagne abbonamenti eccetera, sempre quelle sono le persone. E la rivista, diciamo questo è un dato più interessante, negli ultimi anni ha aumentato progressivamente di molto il numero delle pagine. Attualmente la rivista credo che superi le 1.000 pagine all'anno, diviso 9 numeri, facciamo più di 100-110 pagine mediamente a numero, il che vuol dire gente che interviene. E qui ci avviciniamo un po' alla rivista. Oggi la rivista, io credo, che abbia alcuni meriti, in genere non sta a chi la fa dire quali sono i meriti, sta agli altri, ma credo che qui il discorso sia molto tranquillo e non autocelebrativo o autopubblicitario. Negli anni 70, quella rivista militante che veniva venduta in migliaia e migliaia di copie, che andava a ruba, eccetera, era in realtà una rivista molto militante, molto ideologica, frutto anche dei tempi, scritta da 5 o 6 persone, quasi sempre tutte o quasi della redazione, che scrivevano 7-8 articoli più alcune cronachette eccetera, e questo era il numero di A di allora, della rivista con maggiore successo. Oggi che la rivista fa più fatica a vendere, è però un prodotto completamente diverso. Gli ultimi numeri contengono circa 50 interventi l'uno contro i 6 o 7 di allora, cioè voi prendete il sommario, ci hanno scritto 50 persone che hanno fatto recensioni, interviste, articoli, lettere eccetera eccetera. Quindi una rivista comunque, questo credo che sia un suo merito, comunque una sua caratteristica positiva, oggi più aperta che in passato al dibattito. Mi avvicino sempre di più al discorso militante. Da un punto di vista militante, chi come qualcuno dei compagni presenti ha la mia età o dintorni e un qualche decennio di esperienza nel movimento alle spalle, sa quanto sia cambiato non solo il movimento ma anche il clima politico allora. dai tempi delle lotte per la testa del corteo a un forte settarismo, diciamo così, ideologico, un forte bisogno di fortissima identità nostra e di tutti i gruppi gli uni contro gli altri, giornalisticamente armati, eccetera, eccetera, si è passati un po' all'epoca del post-tutto, del post-ideologico, del volemose bene, ecco, da parte nostra non in maniera eccessiva, diciamo, però c'è un clima diverso e la rivista tiene conto di fatto di questo. Una caratteristica, per esempio, della rivista è quella di essere oggi aperta molto più che in passato lo era quasi niente, parlo sempre del primo decennio, aperta anche a contributi di non anarchici, cioè sulla rivista non scrivono solo anarchici, ci sono noti compagni del movimento anarchico, militanti che hanno rubriche anche fisse, diciamo, penso, non so, a Maria Matteo, a Antonio Cardella, altri compagni che scrivono, altri come per esempio Carlo Oliva, che tiene uno degli editoriali fissi più o meno sulla rivista, e come altri collaboratori una persona che è sicuramente vicina agli anarchici, condivide in parte il nostro progetto, ma non si riconosce nell'etichetta anarchico. Cioè, per scrivere sulla rivista, per essere ritenuti interessanti nel nostro progetto, e questo vale ancora di più per le lettere, eccetera, eccetera, non si richiede l'appartenenza al movimento anarchico, il riferimento totale ed esclusivo all'anarchismo. Questo perché, e qui parlo con l'io singolare, perché meno da papa e mi sembra più onesto, anche se condiviso dagli altri compagni che collaborano strettamente con la rivista, perché io penso che l'anarchismo sia la nostra casa, il nostro punto di riferimento ideologico, sia la nostra famiglia, come dimostrano anche, poi dirò due parole, l'iniziativa di oggi, intendo famiglia in senso malatestiano e positivo, non per quel manicomio sesso repressivo e reazionario che spesso è, diciamo, in questa nostra Italia cattolica, quindi nel senso così fraterno del termine. La rivista è un, diciamo, è un qualcosa di oltre questo, cioè non è solo diciamo la nostra casa, il nostro evento ideologico, ma anche uno spazio aperto, una piazza anarchicamente aperta per stimolare al dibattito, per stimolare a comunicare sulla rivista le loro esperienze, eccetera, anche persone e cose, persone, gruppi, movimenti e situazioni che non abbiano necessariamente la bandierina con la cerchiata sopra. Cioè si tratta, a mio avviso, di andare a cercare con la rivista, ma anche nel lavoro locale, eccetera, contatti, momenti di scambio, aperture di spazio, persone, iniziative che, anche non richiamandosi all'anarchismo, chiaramente non essendo anti-anarchica, questo mi sembra il minimo in una rivista che si chiama Rivista Anarchica, però diano degli elementi di fatto, contribuiscano con delle esperienze, con delle idee, a un discorso più generale di sensibilità libertaria, di sensibilità in direzione opposta e contraria, come dice il nostro amico De André, in senso critico, diciamo di pensiero critico. E allora si potrebbero anche citare alcune aree a cui ci rivolgiamo, quella in Italia, ma non solo in Italia, immensa, dei marxisti in crisi, dei comunisti in crisi, dei post tante cose, diciamo, post muro di Berlino, post PC, post gruppi extraparlamentari, fra un po' post Vendola, post altre cose, diciamo, ai quali noi offriamo in questo momento, questa almeno è la mia interpretazione, non una risposta precisa, perfetta e vincente: molla i marxisti leninisti, vieni fra gli anarchici, vincerai la rivoluzione e guadagneremo il mondo. No, molto più problematica, molto più con punti interrogativi, però anche con dei paletti chiari, cioè anche noi siamo alla ricerca di qualcosa. Secondo me, alle domande poste da Giovanni difficilmente potremo dare una risposta precisa, però abbiamo quella sensibilità, cioè ci interessa una trasformazione nel mondo, che sono passati 150 anni dalle prime teorizzazioni di Bakunin, eccetera, eccetera. Il mondo è cambiato, cerchiamo di cambiare anche noi. Se ci chiamiamo ancora anarchici, non è solo per un gusto della tradizione, ma perché pensiamo che quei valori siano ancora fondanti e importanti. Non so se sufficienti, ho qualche dubbio che siano sufficienti. Nelle pagine di Bakunine e soprattutto nelle pagine del mio amatissimo Malatesta, che ho tenuto sul comodino per 10 anni e che ha ispirato per me personalmente, poi non frega niente a nessuno, però per me è stato importante la mia crescita anarchica, oggi io trovo meno che in passato le risposte a tante cose che mi domando, a tante domande che mi faccio. Però sono ancora convinto che i fondamenti principali dal buon Bakunin, di cui tanta parte anche da buttare via secondo me, al buon Malatesta, di cui come con qualsiasi buon animale salverei qualsiasi parte, perché mi sembra che tutto ha qualcosa da dare ancora, però anche se anche lo stesso Malatesta è, a mio avviso, soprattutto nella sua parte etica, più che in quella strettamente politica, lì si passa il tempo, non ci sono più i socialisti, quando lui faceva a Caffè o Fra Contadini c'era l'anarchico, il repubblicano e il socialista. Beh, i primi due sono scomparsi e il terzo anche lui si è un pochettino trasformato, l'anarchico, ma gli altri proprio non ci sono più. Quindi la parte politica anche quella è da rivedere. Ma quello che volevo dire adesso, al di là dell'esaminare l'attualità o meno di Malatesta, il filone è quello, la scelta di pensiero è quella del 1872, socialismo libertario contro socialismo autoritario. Però il tutto va attualizzato, e attualizzato è una bellissima parola che fa molto fine, fa trend, però in realtà vuol dire poco. E in realtà, secondo me, necessariamente vuol dire poco, perché in un mondo sempre più complesso, dove non ci sono più i riferimenti sociologici, le classi, esattamente come in passato, anche se c'è sempre una questione di classe, dove tutto si è trasformato, non è che noi possiamo solo per una discussione fra di noi o per qualche grande intellettuale, a mio avviso, trovare una risposta. Quindi il mio movimento anarchico è il modo in cui grosso modo si fa la rivista, e secondo me in proiezione dovrebbe essere, ma il movimento anarchico è pluralista, ognuno fa quel che vuole, la pensa come vuole, però un aspetto che mi sembra importante è questo dello sperimentalismo, non a tutti i costi, non per rinunciare alle proprie caratteristiche, ripeto, tutto sommato, per quanto possa essere aperta, si chiama A Rivista Anarchica, che mi sembra ideologicamente anche troppo connotata, tolgo il troppo, è assolutamente connotata, ma una volta connotata non è lo spazio degli anarchici, secondo me, o non è solo in minor parte lo spazio degli anarchici, deve essere uno spazio utilizzato da tante persone, anche non anarchiche, per interagire con noi anarchici. Ma noi dobbiamo farlo non solo per una furba strategia, perché così abbiamo più lettori, perché così abbiamo più compagni, ma da una profonda coscienza che l'anarchismo, a mio avviso, è fondamentale e necessario, ma non sufficiente. Anche l'anarchismo come pensiero. Anche negli ultimi decenni, a mio avviso, e la rivista ha cercato di farlo, noi abbiamo cercato di guardare anche altrove, al pensiero ecologista, certo, preferibilmente in chiave libertaria, Bookchin, eccetera, al pensiero e le pratiche femministe, certo, un'attenzione particolare all'anarcafemminismo degli Stati Uniti e del Canada, ma non solo, cercando di farci attraversare anche dalle contraddizioni che segnalavano nell'anarchismo questi movimenti. E faccio un ultimo esempio, recentemente sulla rivista, parlo degli ultimi numeri, si è aperto un grosso spazio vegano sullo specismo, l'antispecismo, eccetera. E qui il punto non è di arrivare a una sintesi, a nostro avviso, a mio avviso, per dire sì, la rivista, allora l'anarchismo deve essere antispecista, se no non può essere, come sostengono molti vegani, eccetera, eccetera, oppure ma chi se ne frega, Malatesta non ha detto niente dello specismo, quindi chi se ne frega, eccetera. Cioè il mondo va avanti, questa questione a Malatesta non si era posta, oggi si pone, si tratta, per quel che mi riguarda, in prima battuta, di fare proprie queste problematiche. Ognuno poi, ogni gruppo, ogni persona, ogni tendenza, ogni organizzazione, se lo ritiene, darà una sua risposta. Il momento non è quello delle risposte sicure e definitive, è quello però dei progetti portati avanti seriamente e delle idee sviluppate con intelligenza, tenendosi sempre in questo faro, alla luce di questo faro che io considero malatestiano, perché c'è un po', nonostante tutto, ho ancora la fissazione del buon Enrico, fra diciamo, pratica e teoria, questo giusto mezzo che è indefinibile, tutte belle parole che in realtà non vogliono dire niente, se non vengono poi collegate concretamente con quello che si fa. A mio avviso già nella lezione dell'anarchismo migliore c'erano queste cose. Quando Giovanni prima diceva il mondo è cambiato, gli anarchici no, io mi domandavo, cambiati in meglio o in peggio rispetto al nostro passato? perché questo è un aspetto che a me sembra molto importante, che può avere una traduzione immediata anche nelle nostre vite quotidiane. Dobbiamo, a mio avviso tutti, ognuno poi a suo modo, ma ritornare a sottolineare la valenza etica, umana e vorrei dire amorosa dell'anarchismo. Perché uso la parola amorosa? Perché la parola amore, vuol dire amore, cuore, Sanremo, eccetera, cioè una parola abusata in tanti campi, tutti fanno le peggiori cose al mondo sempre in nome dell'amore, però non a caso era una parola usata dal già citato Enrico Malatesta. E il dato della solidarietà umana, il dato della solidarietà fraterna, a parte come elemento teorico, ma in pratica l'anarchismo, quando è stato veramente grande, nei momenti, nelle fasi, nei luoghi in cui è stato grande, lo è stato certamente per presenza politica, per influenza nel sindacalismo libertario, per l'anarcosindacalismo, per bla bla bla bla, l'antimilitarismo in tante fasi, ma lo è stato fatto, se lo si vede da un'altra parte, soprattutto per questa sua grande forza umana, che è quella che fra l'altro gli altri ci hanno riconosciuto, perché l'anarchico del paese che la domenica mattina girava col fioccone magari un po' caratteristico eccetera, era anche in generale la bravissima persona, l'onesto artigiano, il bravo compagno, il bravo cittadino, vorrei arrivare a dire, l'anarchico, il rivoluzionario, quello che non vota, quello che non va in chiesa eccetera eccetera, ma la persona costruttiva sul piano sociale. E questa grande capacità di solidarietà degli anarchici, che non è solo solidarietà di setta, cioè solidarietà al loro interno, si aiutano fra di loro, questo capita in varia misura in tutte le comunità, ma che è una solidarietà aperta. Voglio farvi un esempio specifico, ma che può rendere l'idea. Io personalmente provengo da una famiglia antifascista, madre partigiana, sono stato tirato su, appunto, qualche volta dicevo al latte antifascismo, ma in realtà siccome avevo un'intolleranza alimentare al latte, sono stato tirato su solo ad antifascismo, diciamo. E ritengo l'antifascismo come valore etico, non tanto spaccare la testa ai fascisti, in certe situazioni può essere, ma non è quello il senso dell'antifascismo. Il senso dell'antifascismo nella storia italiana è stata la rivendicazione di tutti quei valori che il fascismo prima, e scimmiottando in qualche misura anche il berlusconismo, se vogliamo, il fascismo è stata una roba un po' più seria, anche nel suo elemento negativo, diciamo, l'antifascismo era quello che si opponeva a questo. E dell'antifascismo ho imparato ad apprezzare certamente i partigiani, la lotta antinazista eccetera, quella che c'è stata dal settembre del 43, ma soprattutto quelli prima, cioè quelli che prima che arrivassero gli alleati in Italia, senza niente togliere al partigianato eccetera eccetera, fin dagli anni 20 e negli anni 30, quando il 99% degli italiani faceva così il sabato mattina eccetera eccetera, aveva accettato, perché in realtà era nei rischi delle cose, di andare al confino eccetera eccetera. Ebbene, queste persone, credo che siano proprio le persone, gli italiani, se vogliamo usare una parola che in genere non usiamo, che sono andati al confino, e per quel che ci riguarda soprattutto gli anarchici, quelli che hanno segnalato diciamo, un'opposizione totale al regime, un'opposizione etica. E tante volte è proprio nei piccoli gesti che si ritrova il senso delle cose. Non è per fare il culto del martire e dell'eroe, ma tante volte sento i compagni dire ma che cazzo facciamo, cosa serve, tanto non serve a niente, eccetera, eccetera. Beh, io penso, per esempio, a mio suocero, Alfonso Failla, ma a quegli altri decine, centinaia di anarchici, e non solo di anarchici, lo dico senza nessuna paura di togliere niente all'anarchismo, ma sicuramente tanti, in buona parte di anarchici, che quando arrivò una disposizione del regime fascista che imponeva di fare il saluto fascista ai confinati quando si rivolgevano alle autorità delle isole di confino, dissero no, noi siamo qui per antifascismo, e in un'Italia che non gliene fregava un cazzo, che si occupava del Giro d'Italia piuttosto della sua barbaccia quotidiana, isolati su un'isola che non era l'isola dei famosi, era esattamente l'isola dei non famosi, in cui non c'era nessuna telecamera e nessuno li collegava alla vita quotidiana, per essersi rifiutati di fare un esercizio ginnico al braccio destro, andarono al processone di Napoli, si presero un anno e mezzo di galera, poi furono scarcerati incarcerati e rimessi al confino. Ecco, io penso che nel comprendere il senso di questi gesti, che non hanno bisogno di collegarsi con il consenso popolare, che se ce l'abbiamo questo consenso è meglio, ma che stanno in una giustificazione etica, cioè nella profonda convinzione di queste cose. Ebbene, questo è il senso. E al confino c'era la mensa degli anarchici e c'era la mensa dei comunisti. Ebbene, i comunisti, a quelli comunisti che non erano d'accordo con loro di volta in volta, negavano il pasto, negavano il mangiare. Quando Umberto Terracini, che poi fu il presidente della Costituente, quindi uomo delle istituzioni, presidente del Partito Comunista, eccetera, si espresse contro l'alleanza fra i nazisti e gli stalinisti, che ci fu prima della Seconda Guerra Mondiale, gli tolsero il mangiare, furono gli anarchici al confino ad accoglierlo alla loro tavola, e lui era un comunista, faceva parte di quel partito che aveva contribuito allo sterminio, diciamo così, degli anarchici in Spagna, eccetera, eccetera. Però la generosità umana degli anarchici li ha portati a questo, e questo è sempre stato riconosciuto agli anarchici. Per passare dalla grande storia all'attualità, io credo che una delle vie, può sembrare molto minimalista, molto quotidiano, ma credo che sia, io ci credo, una delle vie per ripartire con una presenza libertaria e significativa sia quello di accentuare quando già c'è, e comunque di riscoprire nell'agire quotidiano questo senso non politico dell'anarchismo, questo senso etico che non è antipolitico, che non è contrario allo sviluppo di quello che ciascuno può ritenere la dimensione fondamentale dell'anarchismo. Io penso che non esista una dimensione fondamentale, che non sia solo nella pratica dell'organizzazione specifica o del sindacalismo o della propaganda culturale o dell'educazione libertaria o del femminismo o dell'antispecismo, di quello che uno ritiene. Io ritengo che l'anarchismo sia e possa essere tutte queste cose. Ci vorrebbe da parte di tutte queste cose e di tutti i compagni che a questo partecipano il riconoscimento di un carattere più generale, secondo me, dell'anarchismo, senza che nessuno pretenda l'egemonia dell'anarchismo, anche se ognuno ha le sue opinioni. Io, per esempio, chi mi conosce lo sa, personalmente ho sempre avuto un'attenzione un po' forte, per alcuni eccessiva, alla tematica della violenza e di come questa viene usata diciamo dagli anarchici, dai movimenti rivoluzionari, eccetera. È uno dei vecchi temi che interessa non solo me ma anche gran parte dell'anarchismo. Gli anarchici hanno sempre discusso e litigato sul sindacalismo, sull'organizzazione, sull'individualismo, sulla violenza. Sono temi che resteranno aperti, non si tratta di trovare una soluzione, e non si tratta nemmeno di essere buonisti e genericisti, di accettare sotto il nome di anarchismo qualsiasi cazzone e qualsiasi persona che voglia definirsi anarchico. Per esempio, vuol dire, tante volte ci è stato ricordato che Indro Montanelli amava definirsi un toscanaccio anarchico. Cioè, frega un cacchio, cioè, lui poteva definirsi come voleva, noi abbiamo un'opinione precisa. Quindi non è che l'anarchismo sia l'insieme di quelli che si definiscono anarchici. Ci sono dei paletti etici prima ancora che organizzativi, secondo me. Detto questo, però, l'anarchismo, a mio avviso, resterà sempre gli anarchismi. Se dovessi definire a rivista anarchica, più che la rivista, una rivista, perché non può essere la rivista, non ha niente di ufficiale, una rivista dell'anarchismo, direi una rivista degli anarchismi, accettando subito in partenza che ci sia una pluralità. Basta, credo di avere, diciamo, in prima battuta già detto più che abbastanza. Mi riservo di entrare nel dibattito senza cappellino di A, eccetera, eccetera. Ci tengo solo, e non sembri un romantico sentimentalismo da persona avviata sulla strada di una precoce vecchiaia, però voglio dire, credo importante, l'avevo accennato prima, sottolineare l'importanza anche in una cosa come quella di oggi, che è stata assolutamente simpatica, ma non credo che resterà negli annuari internazionali della militanza combattente mondiale. Però per la Calabria è qualcosa, no, ma io lo dico ironicamente, non resterà, ma quello che voglio dire è che il clima, io conosco i miei polli anarchici calabresi un pochettino, ho avuto vari modi di venire qui, io la prima volta che sono stato a Cosenza era 35 anni fa, forse qualcuno di voi non era ancora nato, credo, magari se lo ricorda Iachetta, che è la nostra memoria storica, forse di queste robe qui, o il Buon Domenico, credo che era andato alla libreria Nuovo Mondo e poi era andato all'università di Acavacata, poi nel 76 ero venuto a Acri, a Spezzano e a Cosenza per Spagna 36, poi ero venuto varie volte a Spezzano in varie occasioni, sono tornato recentemente, credo un paio d'anni fa, a fare una cosa ad Acri e una a Spezzano sui Rom. Quindi soprattutto nella provincia di Cosenza, più che in Calabria in generale, ci sono stato tante volte, conosco un po' i compagni, le dinamiche, le menate, le storie, eccetera, eccetera. Però quindi non è che voglio dare un quadro perfetto, dico solo che però quando c'è un sentimento di, diciamo, relativa solidarietà fra i compagni, quando c'è un clima simpatico, gioioso, anche qui non voglio esagerare le parole, però usiamole, nel senso che è bello ritrovarsi fra persone che hanno la stessa idea, che hanno anche degli scazzi, che hanno anche delle differenze di impostazione, e ritrovarsi questa volta intorno alla rivista, che è una roba nordica e lontana, però forse magari neanche tanto. E fra l'altro io ho apprezzato particolarmente, ci sono state varie feste per A quest'anno, però quella del, molta retorica, però è vero, quella che dal sud viene il riconoscimento a un qualche ruolo e non solo emotivo della rivista, fa piacere, anche perché io sono il primo a sapere quanto l'anarchismo nazionale, virgolette, ha spesso, senza nessuna retorica, trascurato il sud. Non sono come Natale Musarra, che è ancora incazzato con Malatesta perché non è mai sceso sotto un certo parallelo per andare a fare conferenze e lo coglieva come una oggettiva alleanza con Umberto Bossi nel tenere lontano il sud. Non arrivo a quei livelli, però voglio dire, esistono anche al nostro interno, anche nei movimenti alternativi, dei problemi, diciamo, di questo tipo. Detto tutto questo, oltre che come beneficiario, ho appena mangiato la testa di Anarchico in una torta, ma voglio dire, beneficiario come rivista, voglio dire, di questa iniziativa, trovo che questi momenti conviviali siano più significativi di quanto forse noi stessi pensiamo, e se uno riesce ad agganciarsi al meglio piuttosto che al peggio, possono essere forieri di uno sviluppo, a mio avviso, lento, progressivo, eccetera. Io non ho mai avuto molto una grossissima speranza della rivoluzione il giorno dopo. Qualche periodo passato fra gli anarchici e nell'arena sociale hanno ridotto, se era possibile, questo grande ottimismo. Però questo non vuol dire che ci sia pessimismo, questo vuol dire assolutamente che secondo me, a partire dalla nostra realtà, dalla coscienza di essere, se non quattro gatti, cinque, sei, eccetera, eccetera, l'importanza delle nostre idee sia tale da permetterci di poter sperare, sulla base anche delle esperienze passate, di poter crescere positivamente e simpaticamente. Comunque ci rivedremo in qualche altra occasione, adesso va avanti il dibattito. Un saluto caloroso e sentito a Gianfranco e Tania, che vengono dalla nostra comune anarchica, rurale, agricola, delle comunarde di Urupia, vicino Taranto, 40 km da Taranto. Grazie, un buon viaggio sentito da questa Calabria. Ricordo che comunque siamo in diretta su Transizione di Fase, una radio web fatta da libertari, trans e quant'altro. Si ogni giorno praticamente sacrificano parte del proprio tempo per una libera informazione dal basso. Franco, se vuoi rimanere nelle memorie della radio. Ok, va bene, grazie, come vuoi. Oscar, potresti completare tu magari un qualcosa che vuoi aggiungere qualcosa su il dire di Iachetta, magari dopo ti riservi. Allora, è difficile intervenire dopo Paolo e dopo Franco. A Franco gli debbo le prime riviste di A, me le ha passate lui, ho fatto conoscere lui a Debo a Franco tanti libri, tante discussioni in serate, aspettando l'autobus, il solito autobus che partiva per Roma, eravamo io e lui, aspettare gli autobus che poi... Cioè io e lui eravamo sempre i primi ad arrivare, non so per quale motivo. Forse per quella stessa tensione morale, etica, quella forza di volontà umana che dicevamo alla testa, che ricordava anche stasera Paolo. Non è semplice andare a sciogliere alcuni nodi teorici. A me piace più dire idee, di quell'afflato umano che poi si condensa a un precipitato, una sedimentazione, per fare la figura dell'intellettuale, insomma, che sono le idee, le nostre idee, il motivo per cui noi qua stiamo stasera. Allora, innanzitutto un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che hanno organizzato questa serata. Innanzitutto ad Arivista Anarchica, che è arrivata a 40 anni, per cui adesso stasera siamo qua a celebrare questo piccolo compleanno. A Gianfranco, che ha creduto in questa cosa, l'ha tirata fuori. E lì per lì ho detto, sì, ok, facciamola, dai, può essere un momento per ritrovarci. Però io sto facendo altre cose, no? Disperso fra una discarica, un inceneritore, una manifestazione a Crotone, l'ennesima emergenza Rom, l'ennesima emergenza migranti, è la crisi che ci sta cominciando a schiacciare, anche se forse in Calabria magari non ce ne accorgiamo, ma ci ritorno dopo. Un saluto a quelli che non ci sono, a Ruben di Catanzaro, che l'anno scorso è stato accoltellato per aver difeso da un sasso lanciato dalla vile mare fascista la sua compagna, che ha partorito una bambina bellissima di 3,9 kg. A Stivo di Catanzaro pure, che non più di 15 giorni fa gli hanno incendiato la macchina, sempre la stessa mano vile fascista. Ai compagni di Locri, che nel loro perenne migrare su e giù per l'Italia non sono riusciti ad arrivare a Cosenza. Ai compagni di Lamezia, che dovevano venire stasera ma non sono venuti, motivi loro. Un paio di loro però erano presenti ieri alla giornata di Genuino Clandestino. Perché ci siamo spesi oggi e ho voluto fare questa cosa di Genuino Clandestino ieri, a Rivista Oggi, perché era un'occasione anche, no? Cioè quelli di Europea venivano, e Europea fa parte del discorso di Genuino Clandestino, così come pure c'erano i compagni di Belmonte, del Tirreno, che erano presenti ieri alla discussione su Genuino Clandestino, che hanno ancora una volta confermato, insieme a quelli di Rupia, insieme a Bakunino, non lo vedo più, sta là, l'amore, l'amore per la nostra terra, che viene completamente ogni giorno calpestata dal capitalismo, dalle finanziarie, da quel capitalismo cialtrone che pretende di avere profitti, non soltanto sulle vite nostre, ma lo sta facendo su chi ha generato le nostre vite. Guardate, non è un discorso retorico, perché se c'è un bene che oggi noi stiamo trascurando, perdendo, dimenticando, è la nostra madre terra. E in Calabria, una sulle cose su cui l'anarchismo oggi si sta spendendo tantissimo, Franco lo sa bene, è la difesa della terra, la difesa dell'ambiente, una ritrovata coscienza sociale, civile, un embrione di ambientalismo radicale, io penso, spero, che è quello della rete difesa del territorio, che sta per il momento è riuscita a dire no su alcune cose, sulle discariche, sugli inceneritori, a una richiesta delle bonifiche. E già fare una richiesta di bonifica significa far accettare alle classi dominanti, ai politici, a quegli imprenditori meschini, cioè gentaglia che manda in Calabria rifiuti radioattivi, manda in Calabria i fanghi delle industrie, affonda le navi a 10-15 km dalla costa, o addirittura se non le spinge su un terreno di un lido di Amantea, per poi andare a portare a pochi chilometri sopra e interrare qualcosa come migliaia e migliaia, 30.000, 40.000, 50.000 metri cubi, non si sa quanto, perché come ha detto lo stesso procuratore Giordano Bruno, cioè abbiamo fatto sondaggi fino a 6 metri sottoterra, fino a un'area di 30.000 metri quadrati, e abbiamo trovato sempre rifiuti e residui. Cioè in tutto questo, come anche nelle battaglie fra i migranti, ieri sera lo ricordava Gianmarco a casa di Gianfranco, dove siamo stati ospiti, ricordava Gianmarco di quando sono arrivati i migranti sbarcati a Lampedusa, e loro a Reggio Calabria sono riusciti subito a fare rete con alcuni migranti locali, ad avere quindi qualcuno che riusciva a tradurre, ad evitare che questi migranti di Lampedusa passassero sotto la polizia ferroviaria e quindi lasciare i propri documenti, farsi riconoscere, riuscire a farli salire direttamente su un treno. Sono i compagni che ci hanno messo la faccia, il cuore, la volontà a riuscire a dare una possibilità di vita altra ai migranti, sperando che questi migranti che arrivano in Italia, e avendo a che fare innanzitutto con un anarchico, con chi non ha un, se non proprio come punto di riferimento, nessuna patria se non il mondo intero, riesca di un domani magari ad essere ribelle, ribelle come quei calabresi che sono andati in Argentina, negli Stati Uniti. Voglio ricordare che su questo banchetto ci sta un libro di un compagno a me molto caro, Oscar Greco, che abbiamo avuto tanti alti e bassi con Oscar, però sicuramente è uno dei compagni a Cosenza che c'è e potrà dare anche molto di più. Se tutti quanti però riusciamo a fare quel discorso che diceva Paolo, cioè a di sapere che c'è un anarchismo, c'è una voglia di stare insieme, c'è una voglia di riconoscersi, c'è una voglia di riscoprire le proprie idee. Le interlocuzioni di Gianfranco le faccio mia nell'ipotesi più propositiva. Salvatore, sto... sì, ciao. Il solito addebito, è un compagno di Crotone che sta all'università, doveva venire qua stasera, mi fa l'addebito, perché purtroppo le cose poi funzionano anche così, no? Le cose hanno anche una loro materialità, sono fatti di soldi, purtroppo, no? Il vile denaro a cui ieri abbiamo dedicato il Genuino Clandestino, cioè di gente che si affranca dall'agricoltura, che si affranca dalla schiavitù del salario e decide di investire la propria terra, la propria vita in una dimensione agricola, rurale, del veder crescere una pianta, sapere che quella pianta si è coltivata con amore, dà dei frutti e che la possiamo dare a mangiare a tutti quanti noi. Io credo che su questa cosa, ad esempio, appunto, sull'ambientalismo, no? Ricollegando a quello che dicevo, sull'ambientalismo, sulla questione del ruralità, gruppi di acquisto, accesso alla terra, riprendere un discorso dal basso, si può sicuramente spendere tantissimo l'anarchismo come già lo sta facendo, insomma. Non è detto che le cose riescono sempre come noi vogliamo, purtroppo, perché qui vengo a quello che dicevo prima, appunto, la crisi. Cioè, tutto comunque è una perenne scommessa, un perenne equilibrio, disequilibrio, ricerca di un qualche cosa che noi abbiamo, cerchiamo, aneliamo come anarchici. Io sono contento di questa serata. Sono contento di questa serata perché si nota un salto di qualità rispetto all'anno scorso, non soltanto nei trascorsi di quest'ultimo anno, dei conflitti che abbiamo aperto, ma sicuramente, come ricordava Bakunin, è che il conflitto da sé non basta se non c'è una progettualità. Se questa progettualità riesce ad avere, come magari lo stesso Franco ricordava e mi ha insegnato anni fa, uno specifico anarchico, questo è un qualcosa che lo dobbiamo ricercare. Io personalmente penso che questo specifico anarchico vada ricercato in un qualche cosa che abbia un significato per le persone che lo portano avanti. Parlare di anarchismo semplicemente in termini di idee, quanto siamo belli, sì però noi siamo un'altra cosa, sì però l'anarchia, non facciamo altro che dare adito a quelli che mi dicevano anni fa, sì, ma te sei anarchico, sei un sognatore. No, perché se c'è qualcosa che ha dimostrato anche il 15 ottobre, e lo voglio ricordare per chi c'è stato, è che comunque esiste una grande rabbia sociale, esiste una voglia di un altro mondo, che sicuramente se questa voglia di un altro mondo non si spende soltanto nell'indignazione. Era molto bella e buffa l'immagine che c'era su A del anarchic, no? Che parlava col giovane, che diceva vogliamo questo, vogliamo quello, sì però siamo indignati, anarchic che si sbatteva la fronte come a dire dove sono finito. E l'indignato alla fine non perlomeno personalmente, poi senza offesa per chi si indigna, però non propongono niente. Noi che proveniamo da una tradizione, Paolo lo ricordava, nei 40 anni di A, però poi parlava anche di alcune persone come Mazzucchelli, Tommasi, eccetera, che avevano una storia ben oltre i 40 anni di A. Lo ricordava Franco, insomma, che è appunto memoria storica dell'anarchismo calabrese, ma non solo, insomma. Ci abbiamo una storia. E questo, Gianfra, non me ne volere, ma abbiamo già affrontato il suo tasto. Personalmente, ed Enzo, che se n'è andato via purtroppo, perché stanco dalle sue giornate, lui lavora di notte più che di giorno, è dovuto andare via. L'anarchismo non è soltanto un qualcosa che non riesce a fare i conti con la modernità. Io dialetticamente la penso al contrario, cioè credo che la modernità, se viene fecondata dal nostro anarchismo, la nostra voglia di ricercare, di sperimentare delle reazioni concrete, e non soltanto delle reazioni concrete alla barbarie del capitale, che dell'ambiente e dello sfruttamento umano, fino ad arrivare appunto alle questioni dei migranti, è un qualcosa che può essere sperimentato, inverato e ricercato. Cioè, se ognuno di noi appunto può cominciare a pensare qua in Calabria che posso fare io per la libertà, che può fare Luigi per la libertà, che sta dalla mattina a sera a lavorare e che l'unico giorno giustamente che è libero dice ma vabbè, ma io magari l'unico giorno che sono libero posso venire a farmi due pippe con voi. Allora io credo che sicuramente ci devono essere dei compagni a Cosenza, e io posso essere uno di questi, cioè lo voglio essere uno di questi, che dicono io ci sono. Però a Oreste piace pensare che insieme a Oreste ci siano altre persone che magari in quel momento non ci sono, però se Oreste sta lavorando per la rivista anarchica e sta facendo una qualcosa che può essere utile a tutti quanti noi, beh, oggi è successo un qualche cosa di speciale, di magico, che non è successo l'anno scorso o anche altre volte. È riuscito a esserci magari a Spezzano quando abbiamo fatto uno degli onomastici fra virgolette della rivoluzione civile spagnola, rivoluzione spagnola non civile, rivoluzione spagnola punto, è una rivoluzione, cioè sarà il vino, se scrivo una cazzata è per il vino. Ma perché? Perché a Spezzano c'è un gruppo organizzato, a Spezzano c'è un gruppo organizzato di compagni che comunque si ritrovano, sanno bene o male che possono contare l'uno sull'altro, e io credo che questo è il salto di qualità che manca a Cosenza e che possiamo fare, se lo vogliamo. Se no possiamo continuarci a spendersi tranquillamente l'ennesima assemblea sulla questione universitaria, sulla questione dell'auletta sì, auletta no, o sulla questione se andare a fare la protesta sotto il Consiglio regionale piuttosto che la Giunta regionale per quanto riguarda la questione dei rifiuti. Tutte questioni importantissime, per carità, perché riguardano, come dire, quello che mi sta attorno, no? Uno ci sta all'università e rompi i coglioni all'università, perché comunque io rivendico come anarchico di essere un rompi i coglioni innanzitutto. Dopodiché, riesco bene, no? Cioè, ci riesco, perfetto. Dopodiché però io come anarchico a Cosenza ho sempre posto una questione, indipendentemente da quello che ognuno fa, se c'è la voglia di spendersi e ritrovarsi insieme per qualcosa che non sia semplicemente l'auletta o la protesta sull'acqua. A proposito dei compagni di legge che sono andato prima, volevano parlarci qui soprattutto del collegamento fra le lotte ambientali, perché loro stanno nella rete di difesa del territorio, l'acqua e le prospettive anarchiche. Purtroppo è una cosa che è, fra me e loro, più o meno abbozzata, che loro la volevano rendere, condividere insieme a tutti quanti noi. Ci sarà sicuramente altra occasione, perché questo è il loro lascito. Dice Oreste, noi salutiamo i compagni e di che siamo pronti a ritornare di nuovo a Cosenza per rivederci e riparlare. Allora, io penso che se c'è questa voglia di ritrovarsi, non semplicemente per fare il compleanno di A, però ritrovarsi per poter dire quali sono i limiti dell'anarchismo, che ci stanno, Gianfranco c'ha ragione, ci sono delle cose che magari vanno svecchiate, cioè tutti quanti noi, penso, e io almeno l'ho fatto e lo dico tranquillamente, abbiamo votato per il referendum dell'acqua, però nessuna testata o rivista anarchica, l'ha fatto in qualche modo, si è spesa pro il referendum. Allora ci sono dei nodi politici, io dico, che non inficiano però l'idea di anarchismo. Cioè io credo che gli anarchici, Gianfra, io credo che questo sta magari fra virgolette la differenza che si potrebbe colmare e andare per andare avanti fra me e te o anche qualche altro compagno, che i limiti ci siano della politica che fanno gli anarchici, cioè del come loro si mettono in gioco, fermo restando che appunto non si dà la delega, la responsabilità è innanzitutto individuale, che può diventare collettiva nel momento in cui collettivamente si fanno delle scelte insieme. E qui voglio dire la differenza che c'è fra i compagni anarchici che stanno nel movimento per i movimenti a Cosenza e tutto il resto, perché io o Franco o qualche altro poco compagno che di striscio ha partecipato nei movimenti per i movimenti a Cosenza, che sia l'acqua, la difesa del territorio, che sia la manifestazione X o Y per i precari o quant'altro. Cioè, io né Franco abbiamo mai fatti volta la gabbana nel movimento a Cosenza. Cioè, sfido chiunque a dire che Oreste oggi ha detto una cosa e domani ne ha detto un'altra. Ma perché me lo devono poi provare? Perché o è becera la loro lettura della realtà, che vede semplicemente un punto di vista e non riesce a affermare la complessità delle cose, come lo diceva prima Paolo, come lo ricordava ieri Bacunino, e che rimanda a un problema di conoscenza della realtà, di teoria, che per me rimane la realtà concentrata, e di come questo poi la riusciamo a spendere nell'immediato, cioè la politica. No, ma dopo lo chiamo, è ancora Salvatore di Crotone. Ah boh, e quindi questo, sicuramente ci sono dei nodi, però penso che ci sia la voglia di ricominciare a metterci insieme e a fare qualche cosa. Si parlava anche di una libreria anarchica, Noemi. Per me è chiaro. Cioè, è proprio quel discrimine, che quel nodo che ci tocca sciogliere, è il nodo che ci tocca sciogliere a Cosenza, Noemi. È proprio questo. Cioè, chiunque, io mi sono scocciato di gente che mi dica, ma gli anarchici dove stanno? Perché io so che ci sono. E il problema è proprio questo, cioè, scusa, ti vogliono costringere ad essere come loro, a essere militonti, a mandare avanti per forza quella cazzo di pratica perché gli è stato ordinato da Roma. In questa stessa sala, Claudio Donisalvi lo ricordava ad un disobbediente. Claudio è un compagno che molti di noi rispettano, riconoscono per il proprio afflato conflittuale di libertà. No, diceva ad un altro, tu non sei nessuno per andarmi a dire io qua a Cosenza come mi devo determinare, e tantomeno accettiamo politiche che vengono da Roma piuttosto che da Padova. È proprio questo, cioè io lo so che Luigi, Noemi, Emi e tanti altri non devono stare a dimostrare a nessuno quello che loro sono e quello che loro valgono, però semplicemente c'è il problema che queste, ci sono altre due strade, provocatoriamente, ok? Scoperchiamo tutte le tavole. Ci stanno i freak da una parte, ok? Che decidono che è meglio costruire una capanna di paglia e fare l'intorno con la capanna di paglia piuttosto che venire a Crotone. Ci sono i compagni insu, fra virgolette, no? Gli anarchici cattivi, così come dipinti dalla stampa borghese, che non partecipiamo alle mobilitazioni in difesa del territorio per come la fa la rete di difesa del territorio, perché significa avere a che fare con la burocrazia dei partiti, dei sindacati, i sindaci e tanto quant'altro, che alla fine comunque ce la prendiamo nel culo e comunque non ci porta a niente. È alla malavita, che non ce la dimentichiamo che ci sta sempre là, perché poi tutto in Calabria è malavita. Ed è proprio questo il problema. Cioè, fra queste due, io scelgo l'anarchismo sociale organizzato. Scelgo il fatto che io ci sono nei movimenti, però ci voglio essere con una mia identità.